Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese, Contrabanda FM 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world alla web della nostra radio. E poi vi ricordo anche i podcast che potete scaricare da ormai oltre 11 anni dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org, che vi possono fare compagnia durante tutto il giorno, tutto l'anno, in estate, insomma vi potete annoiare con i podcast di Zibaldone. Oggi siamo ormai davvero a metà maggio, venerdì 20 maggio, una puntata in cui parleremo della conquista dei diritti, ma parleremo anche di altro. Ci saranno un paio di ospiti, ci saranno alcune news musicali e altra musica che ci accompagnerà in queste due ore di Zibaldone fino alle 20 qui su Radio Contrabanda. Cominciamo subito con una canzone che ci introduce un tema. Il futuro non è scritto, no? È tutto da scrivere, è tutto da immaginare, è tutto da pensare. In fin dei conti lo diceva anche Joe Strummer, che qui ci ascoltiamo insieme ai Mescaleros, Willis Dean to Cricklewood. Tell you the town look good. Willis Dean to Cricklewood, Joe Strummer e i Mescaleros, tratto dal primo album in questa collaborazione tra lo storico leader dei Clash e i Mescaleros del 1999, Rock Art and the X-Ray Style. L'ultima tappa di Joe Strummer, dopo ovviamente gli anni con i Clash, i progetti in solitario e anche gli anni precedenti tra fine anni 80 con il latino Rockabilly War. Abbiamo cominciato con lui perché siamo partiti dalla citazione di un documentario del 2007 sulla vita di Joe Strummer, che è The Future is Unwritten, il futuro non è scritto, perché anche di questo in fin dei conti parleremo nella puntata di quest'oggi. Però prima voglio dare il benvenuto al nostro ergonomico Banzo, Enrico Banzola, bentornato a Zibaldone, buon pomeriggio. Ecco, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a te Steven, a voi gli ascoltatori, intendo dire, ecco, il futuro non è scritto, però diciamo che comunque ci sono alcune piacevoli consuetudini che non abbiamo decisamente bisogno di cambiare, ecco, abbiamo questa tavolozza di futuro da scrivere per quanto riguarda dettagli e questioni ben più fondamentali. Eh sì, hai proprio ragione. Il futuro non è scritto perché quest'oggi, in questa puntata, il primo ospite è Emanuele Felice, storico, professore di economia e storia dell'economia alla IULM e alla LUIS di Milano e Roma rispettivamente, con lui parleremo del suo ultimo libro, che è La conquista dei diritti. Una proposta molto interessante che parte dalla storia, dalla filosofia della storia e pensa il presente, immagina il futuro. Anche per questo abbiamo voluto cominciare appunto con Joe Strummer quest'oggi. E poi nella seconda parte dello Zibaldone di questo venerdì 20 maggio avremo anche un altro gradito ritorno, che è quello di Holden, ossia il nome artistico di Davide Sellery, che ci presenta il suo nuovo disco, dove riscopre, rispolvera, riadatta 10 canzoni inedite di Gianni Siviero. Di Gianni Siviero avevamo già parlato e l'avevamo anche intervistato un paio d'anni fa qui a Zibaldone, cantautore storico degli anni 70 italiani, che poi decise di appendere la chitarra al chiodo, ma ha continuato a scrivere canzoni. Queste canzoni sono state messe in musica appunto da Holden insieme a Flavio Ferri, con la collaborazione anche dello stesso Siviero, che è tornato a cantare dopo praticamente 40 anni. E poi, oltre a Emanuele Felici e Holden, insomma, c'è parecchia musica. Banzo, io a questo punto andrei subito a botta e a bomba con un'altra canzone che, diciamo, è propedeutica a parlare della conquista dei diritti di Emanuele Felici. Che ne dici? Sì, io procederei, anche perché è una canzone che mantiene purtroppo un'attualità stringente. Eh sì, Strange Fruit non ha bisogno probabilmente di presentazioni, canzone del 1939 di Billie Holiday, con cui Billie Holiday chiudeva sempre i suoi concerti per quanto qualcuno storceva il naso. Gli Strange Fruit, lo strano frutto di cui parla, erano gli afroamericani nel sud degli Stati Uniti appesi agli alberi negli anni in cui i diritti civili ancora non erano arrivati in Alabama, in Tennessee e appunto nel sud degli Stati Uniti. Lei è Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to dry. bitter cry. Billie Holiday, Strange Fruit, come dicevi appunto Banzo, per quanto sia una canzone di quasi un secolo fa, è ancora di attualità il suo messaggio, se pensiamo tra le tante cose che potremmo menzionare alla strage di Buffalo di pochi giorni fa. Esatto, quando ho detto che questa canzone continuava purtroppo a essere di stringente attualità, mi riferivo evidentemente, mi riferivo esattamente a questo fatto. Perché sì, diciamo, se pubblicamente, ecco, le impiccagioni auspicabilmente non si svolgono più, ecco, diciamo che la violenza razzista ha assunto questa forma che è abbastanza standardizzata, mi verrebbe da dire, perché non è la prima volta che si compie una strage con queste modalità, inclusa la diretta su Twitch. Non volendo colpevolizzare la piattaforma, però insomma, diciamo che lascia comunque questo margine di manovra agli esaltati del caso che vogliono divulgare le loro deliranti idee. In questo caso la classicissima teoria della grande sostituzione. L'attentatore peraltro era giovanissimo, quindi potrebbe essere una riprova, diciottenne, una riprova indiretta del fatto che Internet è particolarmente feconda per la diffusione di queste teorie, anche se non sappiamo, magari c'è una storia familiare dietro. E per concludere questo riferimento all'attualità, è necessario segnalare che le vittime sono state 10 circa. Si tratta di un evento di più o meno una settimana fa. Eh sì, è proprio così, purtroppo. E andiamo avanti, perché ci sta per aspettare, è già in collegamento telefonico con noi Emanuele Felice, e noi lo vogliamo, diciamo, introdurre con un ultimo brano che è di un grande cantautore italiano, Sergio Endrigo, La canzone della libertà. Banzo, un accenno telegrafico a questa canzone per introdurla ai nostri ascoltatori. Beh, diciamo che dire grande di Sergio Endrigo per me è un po' limitativo, diciamo pure grandissimo, vai, sai che ho un rapporto conflittuale con i superlativi, però ecco, questa è una canzone tratta dal disco Endrigo 68 e colonna sonora originale del film L'Alibi con Vittorio Gassman. Musiche di Ennio Morricone, tra l'altro, un testo che insomma è da leggersi soprattutto in quel contesto, in quella congiuntura storica, parliamo del lungo 68. Ascoltiamoci Endrigo, ce lo spiega meglio lui, e poi ritroveremo in collegamento telefonico, come vi dicevo, Emanuele Felice. Canzone della libertà, Sergio Endrigo. Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo, libertà. Dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo, troppi a volere ancora libertà. Quello che volevamo è libertà, quello che negavate è libertà. Ora però sapete, è arrivato quel momento, subito la vogliamo, libertà. Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, ora però sapete. Ora abbiamo in collegamento telefonico con noi Emanuele Felice, che è professore ordinario di economia e storia economica all'Università Yulm di Milano e alla LUIS di Roma, è stato spesso nostro ospite, con lui parliamo del suo nuovo libro uscito a febbraio di quest'anno, La conquista dei diritti, un'idea della storia, uscito per i tipi del mulino. Innanzitutto Emanuele, bentornato qui a Zibaldone, è un piacere averti con noi. Salve, salve a tutti. Eh sì, Emanuele, è un piacere averti qui, tra l'altro per parlare del tuo nuovo libro, un libro molto importante, La conquista dei diritti. Ricordo anche ai nostri ascoltatori che in passato ci avevi accompagnato per parlare anche di altri tuoi volumi, ricorderei, anche perché si lega a doppio filo a questa tua nuova fatica, Storia economica della felicità, che era uscito nel 2017, sempre per i tipi del mulino. Un libro, La conquista dei diritti, che tu presenti nell'introduzione come in fin dei conti un passo successivo alla storia economica della felicità, ossia il tentativo, no, di colmare l'abisso, scrivi, tra sviluppo tecnologico e condizione umana, e fare questo passo dall'etica alla politica per insomma porsi il problema di come fare perché la storia abbia un significato e vada in una determinata direzione. Insomma, diciamo che è un libro non solo di studio di riflessione, ma anche un libro che fa delle proposte concrete per il mondo in questi anni venti del terzo millennio. Ma sì, essenzialmente sì, è un libro che cerca di ricostruire un orizzonte di azione collettiva rispetto ai nostri, ai grandi problemi del nostro tempo. Diciamo che il grande problema del nostro tempo è orientare lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche in particolare verso i diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo, che sono in un'accezione estesa, i diritti storici, personali, poi sono i diritti del welfare state, i diritti ambientali anche. Quindi si tratta di governare lo sviluppo verso questo orizzonte. Tu parli infatti di diritti umani allargati nel libro, no? E suggerisci che la politica dovrebbe saper fondere tre importanti tradizioni, quella del liberalismo, del socialismo e dell'ambientalismo, che dici sono ideologie complementari e difendono, diciamo così, tre tipologie diverse di diritti: quelle civili, il liberalismo, quelle sociali, il socialismo, e quelle degli animali e dell'ambiente, l'ambientalismo. Sì, se noi guardiamo alla storia dell'Occidente almeno, vediamo come effettivamente vi è stata una progressiva inclusione di nuovi diritti che nell'includersi, nel crearsi, ponevano anche doveri ai diritti di prima. Quindi vediamo all'inizio i diritti civili, come la libertà di stampa, di pensiero, quelli del liberalismo tra il 700 e l'800. Poi vediamo con l'innesto del pensiero socialista democratico, vediamo la creazione del welfare state, quindi il diritto alla salute, all'istruzione, alla casa, a un lavoro e a un salario degno, che sono anche aspetti di realizzazione della persona umana, quindi non sono solo diritti collettivi, ma attengono anche appunto a una dimensione di realizzazione della persona. E ora vediamo più di recente i diritti ambientali, che sono sia i diritti degli animali sia i diritti delle persone che verranno. Vediamo infatti che questo è stato inserito anche adesso nella nostra carta costituzionale, poco dopo l'uscita del libro è stato inserito, però dà l'idea di una direzione. Ora, questa direzione non è scontata, perché ci sono stati dei passi indietro, pensiamo alle due guerre mondiali, pensiamo al nazismo, al fascismo, pensiamo negli ultimi decenni all'impostazione neoliberale che ha ridotto i diritti sociali, ha creato seri problemi all'ambiente. Quindi io non dico che questa è una direzione scontata, necessaria dello sviluppo tecnologico, dell'economia, dello sviluppo della storia umana, ma dico che è una direzione possibile, che si può avere intanto se vi è consapevolezza di questo e volontà di andare in questa direzione. Peraltro io noto proprio come storicamente questi diritti vanno insieme, non è affatto vero che siano contrapposti, questa è una narrazione falsa, cioè può essere, nel periodo neoliberale si sono contrapposti, ma se noi guardiamo a quello che è successo in Europa negli anni 50, 60 e 70, noi abbiamo visto crearsi il welfare state, quindi creare il diritto all'istruzione, alla salute, e contemporaneamente sono arrivati i diritti civili di generazione nuova, cioè l'emancipazione delle donne, la libertà di amare, il divorzio, l'aborto, i primi movimenti delle persone LGBT. Quindi sono avvenuti insieme e stanno insieme. Anche oggi pensiamo come al tema dell'uguaglianza di genere si ponga il problema, ci sia il problema dell'eguaglianza salariale fra uomini e donne, di un welfare a misura delle donne, cioè, stanno insieme. Ma prima di passare all'attualità ti volevo domandare un'altra cosa che ha a che fare con le origini anche, no? Di questa tua riflessione, e mi riferisco alle origini storiche. Tu parti soprattutto da due grandi eventi che hanno segnato l'inizio della contemporaneità nella storia umana, ossia l'indipendenza degli Stati Uniti, e citi proprio quel diritto alla ricerca della felicità che appunto si plasmò alla fine del XVIII secolo nell'ex colonia britannica, e poi ovviamente la rivoluzione francese con la triade libertà, uguaglianza e fraternità. Ecco, a partire da lì delinei questa storia, queste tensioni che esistono tra queste serie di diritti, ma appunto come tu dici, senza diciamo difendere una visione teleologica degli ultimi due secoli, che in realtà appunto vanno insieme. Ecco, che importanza hanno questi due momenti, l'indipendenza degli Stati Uniti, la rivoluzione francese, per la storia che viene poi nei decenni successivi, e a tutt'oggi qual è, diciamo, l'attualità ancora di alcune delle idee lanciate in quel momento? Guarda, nella indipendenza americana c'è questa proclamazione del diritto alla pursuit of happiness, diritto a cercare di essere felici, che è una proclamazione allora molto importante, perché apre di per sé all'estensione progressiva dei diritti rispetto a ma come viene fatto ad esempio nella rivoluzione francese, nella prima costituzione, nella prima dichiarazione dei diritti dell'uomo. Qui si diceva: diritti dell'uomo, non vi è questo de pursuit of happiness, ma c'è la proprietà privata. Invece gli americani scelgono quest'idea, che non vuol dire solamente appunto l'arricchimento, ma vuol dire una dimensione relazionale, per esempio, e vuol dire appunto i diritti del welfare state. Quindi da questo punto di vista è molto importante quella dichiarazione fatta allora. La rivoluzione francese invece io la prendo in particolare in questo libro, perché la rivoluzione francese è un po' come il Big Bang per chi studia la storia umana, perché in pochi anni c'è un'accelerazione della storia gigantesca, anche tragica, drammatica, folle a tratti, dove però si vede compresso quello che poi avverrà nei due secoli a venire, per certi aspetti, sul piano delle idee. In certo senso avviene tutto allora, come in un nucleo che poi esplode, e che le cui onde poi si sentiranno nei secoli a venire. Però io riprendo della rivoluzione francese soprattutto questo trinomio noto, liberté, égalité, fraternité, cambiandolo un po', che per esempio l'égalité all'inizio era l'uguaglianza formale, poi l'égalité diventa anche l'eguaglianza sostanziale, quindi la liberté del liberalismo, l'égalité nel momento in cui si dice non basta più l'eguaglianza formale, ma bisogna essere messi effettivamente nelle condizioni di essere uguali nella realtà, perché questa è una premessa anche per la libertà. E poi l'ideale della fraternité, questo è quello che si modifica di più, perché il termine fraternité allora viene utilizzato e a lungo verrà utilizzato, anche Marx è critico su questo per esempio, perché serve all'interno dell'idea di patria. Oggi invece, ed è significativo questo cambiamento, il termine fraternité è cambiato, pensiamo soprattutto qui al Papa Francesco, no? Cambiato con una idea che siamo fratelli perché condividiamo la stessa casa comune, la terra, che dà sia un'idea di come la dimensione collettiva in cui noi agiamo si sia ampliata dalla patria al mondo intero, sia appunto l'inclusione della dimensione ambientale. E quindi io lo prendo come una sorta di Big Bang che poi evolve nel tempo e queste tre parole diventano i simboli di queste tre visioni che cerco di tenere insieme nell'idea della storia che presento nel libro. A questo proposito, e passando invece più a questioni di attualità, vediamo come, insomma, tu in realtà già lo dicevi, nella storia degli ultimi due secoli abbiamo visto a volte dei passi indietro, delle parentesi, per citare Croce, no? Penso ai totalitarismi e non solo al nazismo, nell'attualità, negli ultimi anni, vediamo, insomma, una forte crisi delle democrazie liberali, dove cresce la sfiducia e l'apatia della cittadinanza verso le istituzioni, dove le società sono sempre più sfilacciate, atomizzate, e dove tra l'altro ci sono dei passi indietro, penso ad esempio all'aborto negli Stati Uniti, una notizia di poco tempo fa, quello che abbiamo visto in Polonia e in Ungheria negli ultimi anni, ossia insomma, la visione che tu delinei di questi diritti che vanno insieme, no? Civili, sociali e dell'ambiente, in realtà, insomma, ci sono forze politiche ma anche pezzi della cittadinanza che sembrano non voler andare in questa direzione ed anzi ritornare indietro di parecchi decenni. Sì, esatto, è proprio così, anche per questo che ho scritto il libro. Dunque, io penso che il liberalismo, io penso che il pensiero socialista democratico sia per certi versi la naturale prosecuzione del liberalismo, se consideriamo il liberalismo come un pensiero politico fondato sui diritti dell'uomo, sull'uguaglianza di tutte le persone e sulla dignità del lavoro delle persone. Quando il socialismo e il liberalismo stanno insieme, cioè la socialdemocrazia nella democrazia liberale, fanno grandi cose, entrambi soddisfano le loro promesse di emancipazione umana. Quando si separano, invece si contraddicono e vanno in crisi a se stessi. Ora, negli ultimi 40 anni si è avuta la separazione del socialismo democratico dal liberalismo, che è l'idea neoliberale invece che non ci deve essere un intervento pubblico, una dimensione collettiva per i diritti sociali e ancor meno per quelli ambientali. E quindi conta solamente la libertà dell'economia e le libertà personali. Allora, questa visione neoliberale degli ultimi 40 anni ha portato alla crisi della democrazia liberale, perché ha portato ad aumentare le disuguaglianze interne, e dove infatti il neoliberalismo si è applicato di più, come negli Stati Uniti, e lì c'è la crisi maggiore, con Trump, con tutto quello che sappiamo. E non solo, ha portato anche le democrazie liberali a diminuire il loro fascino rispetto al capitalismo autoritario della Cina, della Russia, degli Emirati Arabi, i quali dicono: ma se in fondo voi ci dite che tutto quel che conta è la crescita economica, noi vi garantiamo la crescita economica perché volete i diritti umani. Ma io però ho scritto questo libro anche per un motivo forse ancora più ambizioso in un certo senso, cioè il liberalismo è in crisi e la democrazia liberale è in crisi, anche perché la democrazia liberale non riesce a offrire una visione etica coerente ai cittadini per tenerli insieme. La suggestione nazionalista, la suggestione religiosa che c'è in America, per esempio, sono un modo per tenere insieme i cittadini attorno a una visione comune. Non c'è solamente un motivo dell'economia per cui questi votano Trump, perché altrimenti non avremmo il caso in Europa, in Polonia, che è cresciuta enormemente negli ultimi 30 anni, certo, in cui pure votano l'estrema destra. Cioè c'è un motivo di un collante ideologico. E il liberalismo così sfilacciato ha perso questa prospettiva di vita da dare ai suoi cittadini, questa ideologia tecnicamente. E io in questo libro provo a dire che questa ideologia può essere l'idea della progressiva estensione dei diritti dell'uomo fino alla dimensione ambientale, non vedendoli come contrapposti, ma vedendoli invece come diritti che, estendendosi, pongono doveri. Quindi l'idea di ricostruire un modo, dice, perché dobbiamo voler bene alle società aperte in cui viviamo, in cui siamo, qual è l'orizzonte? Io dico, l'orizzonte può essere questo, rispetto alla prospettiva nazionalista, neoreligiosa, neofondamentalista. Può essere quest'idea di convivenza umana che ha radici storiche, ha radici nella ragione umana e oggi si apre alla prospettiva ambientale. Facciamo una piccola pausa musicale. Francesco De Gregori ci ricorda che la storia siamo noi. Andiamo ad ascoltarci la storia, appunto, del grande cantautore romano che so che tu ami molto, e poi rientriamo con te. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Siamo qui in collegamento telefonico con Emanuele Felice per parlare della conquista dei diritti, un'idea della storia, il suo nuovo libro. E Emanuele, ci stavi parlando appunto di questa prospettiva che tu delinei nel libro, passando dall'etica alla politica, degli effetti del neoliberalismo sulle crisi delle democrazie liberali e pluraliste nell'attualità. Quello che però, diciamo, la domanda che mi sorge spontanea è, ma tu non non vedi o non credi che per applicare anche, diciamo, questa proposta ci siano dei problemi di fondo molto gravi, appunto una società che è piuttosto sfilacciata, la sfiducia esistente, no? Dei cittadini verso le istituzioni e soprattutto, forse mi domando, dei partiti politici che sono sempre meno radicati sul territorio e delle classi politiche forse non così preparate come quelle dei decenni scorsi e penso per esempio alla seconda metà del Novecento. Sì, tutto questo è vero, io aggiungo un motivo ancora più serio. Quando il socialismo e il liberalismo si sono innestati nei 30 anni gloriosi del cosiddetto compromesso socialdemocratico, negli anni 50, 60 e 70, dandoci diritti sociali, nuovi diritti civili, questo è avvenuto in luoghi in Occidente dove c'è una forte crescita dell'economia, basata peraltro sulla fabbrica fordista, che favoriva le organizzazioni operaie, che poi erano la base del consenso dei partiti della sinistra del tempo, e dove c'era una popolazione giovane molto maggiore. Oggi, se guardiamo all'Occidente almeno, noi non abbiamo queste condizioni, abbiamo una prospettiva di stagnazione secolare e abbiamo una popolazione sempre più vecchia, più anziana, insomma. Quindi il tema si pone a monte di dove sono le forze sociali per realizzare questa storia. E oggi non c'è più appunto quel grande movimento operaio che poi si legava ai movimenti dei giovani, e vi è una situazione molto più dispersa. Però appunto, se noi pensiamo che le lotte per il diritto alla casa stanno insieme con le lotte ambientali, con le lotte per la libertà di amare, per esempio, allora noi abbiamo una serie di gruppi sociali che lottano, che invece di lottare ognuno per sé, si possono coordinare su questo orizzonte. Pensiamo per esempio alle lotte per il diritto alla casa con il diritto ambientale, pensiamo a quanto sia importante oggi la riqualificazione energetica delle case, quanto per esempio le bollette incidano sulle famiglie con un reddito più basso, per fare alcuni esempi concreti, pensiamo a quanto sia importante ridefinire il welfare state per garantire un'effettiva parità tra donne ed uomini. E quindi, insomma, si tratta di capire che tutte queste aree di lotta, perché poi i diritti si sono ottenuti nella storia, si sono conquistati, si sono ottenuti con le lotte per lo più, si possono tenere insieme in una visione. Quindi questi movimenti che oggi sono oggettivamente dispersi rispetto all'epoca fordista possono trovare un tessuto ideale su cui stare insieme e lottare insieme. E passando, diciamo, guardando quello che tu proponi dal punto di vista economico, ricordo che appunto tu sei professore di economia e storia economica in due università italiane, potremmo dire che diciamo, la proposta che tu fai si potrebbe sintetizzare nella formula keynesianismo più ambientalismo? Ossia un aggiornamento della proposta, diciamo, di Keynes applicata in fin dei conti nei 30 anni gloriosi, però con la dimensione ambientale? Sì, per molti aspetti sì, per molti aspetti sì. Per investimenti pubblici rivolti anche in particolare alla green economy, alla ricerca scientifica anche in questi campi, e quindi un ritorno sicuramente centrale sul ritorno dell'intervento pubblico rivolto anche alla dimensione ambientale. Però questo, insomma, va fatto anche per fare questo è importante cambiare anche i modi in cui la globalizzazione è stata fatta. Bisogna in particolare tornare a governare i movimenti speculativi della finanza a livello mondiale. E quindi, cioè, non è, mentre il keynesismo si è applicato storicamente solo nello Stato-nazione, anche se c'erano istituzioni sovranazionali che funzionavano, e a tal fine oggi si tratta, insomma, di pensare anche a una politica globale. Pensiamo a una tassazione globale delle multinazionali, oppure parlo del tema dell'abolizione dei monopoli intellettuali per tornare a fare una ricerca pubblica di base globale. Questi sono temi che vanno affrontati. Del resto, il valore aggiunto del movimento ambientalista rispetto ai movimenti della sinistra storica è che è un movimento globale e che quindi dovrebbe spingere verso politiche globali e anche di maggiore integrazione da questo punto di vista. Ovviamente il grande ostacolo adesso, ma questo già se ne parla anche nel libro perché le avvisaglie c'erano tutte, è la nuova guerra fredda, anche calda, con paesi che democratici non sono. Come affrontare questa sfida? A questo proposito, infatti, era la successiva domanda che ti volevo lanciare, che si collega effettivamente a tutto il momento di inflazione, crisi energetica che stiamo vivendo. E qui penso anche ad una questione, insomma, durante la pandemia, ma già negli anni precedenti, almeno in ambito europeo, si è lanciata una sfida che è quella del Green New Deal, dove molti però dicono, attenzione, in realtà c'è chi utilizza termini e parole e concetti ambientalisti per fare solo del greenwashing, no? E poi è arrivata appunto l'attuale guerra in Ucraina, che sta modificando completamente le previsioni che erano, insomma, che riguardavano la transizione verde, la transizione ecologica. Ecco, tu come stai leggendo la fase attuale e che cosa ti aspetti, visto, insomma, le notizie che ci arrivano di giorno in giorno, che sembrano sempre più preoccupanti? E penso, riguardo all'ambiente, anche alla necessità di mantenere, per esempio, il carbone durante un periodo per evitare la dipendenza dal gas e dal petrolio russi. Sì, questo del carbone sicuramente è negativo, però io vedo che, insomma, il confronto con la Russia adesso sta soprattutto accelerando verso le energie rinnovabili, verso la transizione energetica per eliminare la dipendenza dal gas. Però queste sono cose più di breve impatto, diciamo. Il punto di fondo è come noi ci relazioniamo con regimi che sono tecnologicamente molto avanzati, la Cina, ma anche la Russia per quel che riguarda i missili ipersonici che possono distruggere il mondo, e sono tecnologicamente molto avanzati, ma non credono in questa storia di progressiva estensione dei diritti, anzi vi si contrappongono in maniera esplicita. E questo è un nodo che c'era già prima, perché l'ascesa di queste potenze, della Cina in particolare, c'era appunto da tempo e quindi è affrontata nel libro. Ovviamente ora ha assunto una dimensione più drammatica e più urgente. E io penso che noi non possiamo immaginare di fare un confronto militare con queste potenze. Ovviamente dobbiamo essere preparati all'eventualità, ma lo scontro, a differenza della prima guerra mondiale, che fu vinta grazie alla superiorità geopolitico-economica dell'Inghilterra sulla Germania, della seconda guerra mondiale fu vinta perché l'Occidente liberale si alleò con Stalin. La guerra fredda fu vinta perché il nostro modello economico era superiore a loro. Oggi noi non abbiamo una superiorità geopolitico-militare sul campo, perché la Russia più la Cina sono insieme molto potenti, più altri alleati, per esempio l'India, insomma non è affatto detto che l'Occidente, ma poi sarebbe anche impossibile vincere date le armi nucleari. Secondo me anche sul piano dell'economia è molto incerto l'esito, perché queste hanno economie capitaliste anche loro, di mercato, quindi non è un modello alternativo. Io penso che società aperte come le nostre siano meglio attrezzate per gestire sfide come la pandemia, e pensiamo a come è scoppiata la pandemia in Cina, hanno arrestato all'inizio quello che aveva lanciato l'allarme, o come la transizione energetica, che è un processo aperto in cui nessuno ha una risposta certa, come nella scienza, dove quindi il confronto libero aiuta. Però sono cose di molto lungo periodo, difficili da misurare, e secondo me il confronto anche sul piano economico-tecnologico è aperto. Allora noi quello che dobbiamo fare, l'unica cosa che possiamo fare sensata, è convincere i cittadini di quei paesi che il nostro modello, cioè quello fondato sui diritti, è il migliore del loro. Ma come li convinciamo? Noi li convinciamo mostrando innanzitutto di crederci noi, cioè mostrando e assumendo una coerenza nel nostro modello, che noi in questi decenni non abbiamo avuto. Le disuguaglianze molto forti cresciute in Occidente, lasciate crescere, mostrano che noi non crediamo in questo. Nell'ordine internazionale, i lager in Libia mostrano che non ci crediamo. Prima dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, la maggiore violazione del diritto internazionale è stata l'invasione dell'Iraq da parte degli USA. E gli USA, assieme alla Cina, alla Russia, non riconoscono la Corte Penale Internazionale, che serve proprio a giudicare le gravi violazioni dei diritti umani fatte anche dagli americani in Afghanistan ed in Iraq. Quindi noi dobbiamo, cioè loro dicono voi siete incoerenti, cioè lo dicono sempre, è un problema che il liberalismo ha sempre nei confronti del resto del mondo, e dice voi vi riempite la bocca di belle parole ma poi siete incoerenti, e in parte è vero, e noi dobbiamo invece mostrare, dobbiamo dialogare con loro economicamente a tutti i livelli e contemporaneamente mostrare di essere coerenti. Quindi dobbiamo cambiare noi stessi per cambiare loro. C'è un ultimo elemento per chiudere anche questa chiacchierata con te, Emanuele, che torna di fondo ed è tornato anche in quello che ci hai spiegato, che sono appunto le innovazioni tecnologiche. Sappiamo bene, lo abbiamo percepito e l'abbiamo capito in questi ultimi anni, che spesso insomma la tecnologia va molto più rapida della legislazione, quindi anche della difesa dei diritti che può essere portata avanti dalle istituzioni democratiche liberali e dalle società aperte come quelle dell'Europa occidentale o degli Stati Uniti. E insomma questa è una questione, io credo, chiave. Penso non solo a effetti come la disinformazione, il potere delle reti sociali, insomma adesso c'è anche tutta la questione su Elon Musk e la proprietà di Twitter, cosa significherà, ma penso anche alla la proprietà dei dati, che è una delle grandi battaglie di questi decenni. Bene, insomma, tu come inserisci questa questione, questa necessità e difficoltà di controllare non solo le grandi imprese tecnologiche, ma anche di controllare lo sviluppo tecnologico e di adeguarlo appunto a la triade libertà, eguaglianza e fraternità? Ma questo è appunto uno dei temi centrali, ed è anche un aspetto in cui la visione un po' ingenua o volutamente ingenua dei neoliberali ha fallito. Cioè la politica democratica deve governare l'economia e lo sviluppo tecnologico, altrimenti se lo si lascia governare solo alle imprese, alle grandi imprese, queste poi si pongono dei problemi molto seri per la libertà delle persone. E questo è la questione dei big data, dell'informazione, è cruciale oggi. È sicuramente un settore che va regolato, va anche tassato peraltro in maniera equa, e dove noi abbiamo perso molto tempo negli ultimi anni. Ma più in generale si è palesato in Occidente negli ultimi decenni un problema strutturale di debolezza della politica rispetto alle grandi imprese, che le grandi imprese fanno lobby, pagano di più, pagano meglio, quindi hanno anche un personale più preparato, e quindi orientano la classe politica ai loro interessi. E questo è un problema serio. Penso che si affronti, oltre che ovviamente bisogna tassare in maniera equa le grandi imprese, fare delle regole per orientarle in maniera democratica quando gestiscono le informazioni, per esempio. Però questo ci vuole la volontà di farlo. Per avere volontà di farlo ci vuole una politica forte. Per avere una politica forte ci vogliono riforme in questo senso. Ad esempio io per il nostro paese, per l'Italia, sono a favore di un ritorno del finanziamento pubblico dei partiti, in cambio di regole certe sul funzionamento dei partiti. E questo andrebbe fatto, cioè l'impegno politico deve tornare a essere una cosa entusiasmante in cui le menti migliori si applicano per migliorare il mondo in cui siamo e viviamo, e hanno anche i mezzi per farlo. Insomma, le sfide sono molte e quello che tu proponi ovviamente insomma è una sfida enorme, ma su questo ci dobbiamo confrontare proprio in questo periodo storico che, come sappiamo, è molto complesso. Ricordo anche ai nostri ascoltatori, Emanuele, che tu sei editorialista del Domani, un quotidiano che ormai è una bella realtà in Italia, e quindi consiglio anche di leggere i tuoi commenti, le tue idee pubblicate su Il Domani, oltre ovviamente alla Conquista dei diritti, un'idea della storia, che è il tuo ultimo libro, uscito per Il Mulino all'inizio di quest'anno e di cui abbiamo parlato quest'oggi qui a Zibaldone. E, tra l'altro, un'ultimissima cosa, so che stai presentando moltissimo il tuo libro in giro per l'Italia, manca ancora del tempo, ma ad ottobre ti avremo qui a Barcellona. Sì, torno molto volentieri a Barcellona, dove, come sai, Steven, ho insegnato 5 anni, ho vissuto 5 anni, quindi non torno da prima del lockdown a Barcellona, quindi sarà un ritorno bello, spero. Sicuramente così, 14 ottobre, poi lo ricorderemo ovviamente quando si avvicina la data, alla libreria Le Nuvole di Grazia si presenterà La Conquista dei diritti, un'idea della storia di Emanuele Felici, che ci ha accompagnato quest'oggi. Emanuele, grazie davvero di essere stato con noi. Lascio lanciare e presentare a te la canzone con cui ci salutiamo, perché tu ci avevi già accompagnato in una puntata, tra l'altro, su Bob Dylan, che conosci moltissimo e che ami particolarmente. Ci andiamo ad ascoltare una versione particolare della sua mitica Blowing in the Wind. Esatto, sì, che forse è una canzone che poi mi piace perché appunto è aperta, dice la risposta soffia nel vento, c'è, dobbiamo cercarla, trovarla insieme. E qui presentiamo una versione del 1979, particolarmente bella perché è più classica, con il pianoforte, insomma, vedrete, è suggestivo. Sembra un po' Immagine, allora, però Immagine aperta. Allora ce l'andiamo a sentire, sicuramente gradiranno anche i nostri ascoltatori. Grazie ancora di essere stato con noi, Emanuele, a presto e un abbraccio. A presto, grazie a voi, ciao, grazie. How many rooms does the man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Zibaldone. Radio Contrabanda. Thank you. come vive il vicino. Noi non chiediamo che di essere al sicuro. Noi che ci illudiamo di esserlo davvero. Scriviamo on sullo zerbino. Noi non vogliamo capire. Non vogliamo capire che tutto questo sta per finire. Questa canzone si intitola Non vogliamo capire, il primo singolo del nuovo disco di Holden, intitolato Questi anni, 10 brani inediti di Gianni Siviero, uscito da poco per Squilibri, un'etichetta discografica, una casa editrice che seguiamo molto. Abbiamo intervistato anche a suo tempo Mimmo Ferraro, propone sempre cose molto interessanti. Holden è stato spesso nostro ospite, lo seguiamo da ormai più di una decina d'anni e oggi torna a trovarci per parlarci di questo nuovo lavoro discografico. Holden Davide Sellari, bentornato a Zibaldone. Grazie Steven, grazie, ciao a tutti. Beh, e complimenti per questo disco innanzitutto, che a me personalmente è piaciuto molto. Era un disco atteso ed un disco che diciamo riporta anche in primo piano una figura che è quella di Gianni Siviero. Due anni fa era uscito proprio Io credevo, un disco collettivo, un doppio disco collettivo dove partecipavi anche tu tra l'altro, e un disco appunto che riportava diciamo le canzoni di Siviero all'attualità, dopo praticamente 40 anni in cui Siviero aveva abbandonato il palcoscenico, ma continuava a scrivere canzoni. Ecco, questo disco in fin dei conti si collega un po' a quella operazione, vero? Beh sì, è strettamente collegata, perché poi tra l'altro nel disco c'è anche una versione, una nuova versione di Che bella luna, che era appunto nel disco che hai citato. Questa volta nella canzone c'è anche la voce meravigliosa di Gianni. Siamo riusciti a convincerlo, ma in realtà non abbiamo neanche dovuto insistere troppo. Nel disco c'è anche la sua voce, noi siamo molto, molto contenti insomma di questa cosa, perché comunque credo che dia alle canzoni un qualcosa in più, essendo poi le canzoni sue, insomma, chi meglio di lui può metterci la voce. Eh sì, e immagino che sia stato anche particolare lavorare appunto con Gianni Siviero, per quanto a distanza, perché come tu dicevi, questo disco, diciamo, tu certo sei la voce principale, con te ci sono Flavio Ferri, che è anche il produttore del disco, ed altri musicisti come Ulrich Sandner, che ti accompagnano da anni, ma appunto c'è anche Gianni Siviero che duetta con te in praticamente tutte le canzoni. Eh sì, sì, ci siamo riusciti a tirarlo fuori, a stanarlo, e io credo che lui sia molto contento, anzi tolgo anche il credo, perché poi noi ci sentiamo spesso con Gianni, ormai si è creata un'amicizia diciamo a distanza, anche se non ci siamo mai incontrati, ci scriviamo spesso e mi ha ultimamente insomma commentato spesso di quanto sia contento di questo lavoro. Magari inizialmente poteva avere i suoi dubbi, le sue incertezze, ma ora sembra davvero contento, insomma, quindi per noi è una grande soddisfazione. Ecco, com'è stato per te cantare insieme a Siviero? Perché tra l'altro, insomma, lo ricordo, Siviero non cantava da più di 40 anni. Esatto, sì. Beh, è stato innanzitutto un lavoro a distanza anche in questo caso, però le voci si sono trovate subito, come noi ci siamo trovati anche a livello proprio diciamo intellettuale, no? A livello proprio di connessione a distanza, quindi è stato piuttosto spontaneo. Io ci ho lavorato molto su queste canzoni, perché comunque non essendo mie sono dovuto entrare in dei testi piuttosto corposi, no? Sappiamo che Gianni non scrive certo canzonette, quindi ho dovuto fare un lavoro soprattutto su me stesso e, per farle mie, ecco, e poi la voce sua ha fatto il resto. Sì, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che Gianni Siviero è stato un cantautore importante della scena italiana degli anni 70, partecipò nelle prime edizioni del Premio Tenco e poi appunto a cavallo tra anni 70 e 80 decise di smettere anche per una profonda coerenza personale, insomma il discorso di dire io faccio musica non per salire su un palcoscenico, non per divertirmi, ma anche per cambiare il mondo. Ecco, il mondo sta andando in un'altra direzione, quindi io smetto di andare su un palco. Vari album all'attivo, insomma cercatevi quell'Io Credevo, sempre pubblicato da Squilibri, che propone canzoni edite, inedite di Gianni Siviero. Nel tuo caso, Davide, voi invece avete scelto delle canzoni tutte inedite. Ecco, Gianni Siviero negli ultimi 42-41 anni ha scritto una marea di canzoni che non ha mai inciso. Insomma, come hai scelto queste canzoni? Voglio dire, la scelta non è, immagino non sia stata facile. È stato un lavoro molto lungo, perché comunque Gianni nella sua pagina, nella sua web, ha fatto questa cosa fantastica, no? Dove lui ha pubblicato, diciamo pubblicato e non pubblicato, insomma ha reso pubblici dei testi raggruppandoli con dei nomi di dischi, no? Disco giallo, disco rosso, disco verde, ha fatto una marea di dischi, ha messo a disposizione tutti i testi e dei file. Attenzione che sono dischi solo di testi, ecco, non c'è la musica. Sono di testi, ma c'è praticamente, ci sono un piccolo riproduttore audio dove lui ha registrato semplicemente voce e chitarra, no? Sono delle linee guida che alle volte ci hanno aiutato un po' per interpretare i pezzi. Poi non l'abbiamo praticamente stravolto, insomma, con Flavio, molte canzoni, quindi sono anche non riconoscibili rispetto alla linea originale. Ecco, ma tornando alla scelta, diciamo, su che base le avete scelte queste canzoni? Sì, perché ti piacevano di più? Perché si sembravano più adatte alle tue corde? Beh, l'abbiamo scelto innanzitutto dai testi che sono sembrati più interessanti, ne abbiamo letti una marea di testi insieme, sia io che Flavio. Poi ascoltando un po' anche qualche melodia, qualcosa che potesse essere interessante, abbiamo scelto, ma soprattutto volevamo fare abbiamo scelto in base a una, per poter dare in questo disco una visione globale di quella che è la poetica di Siviero, quindi inserendo differenti argomenti, perché sono la politica, il sociale, ma anche i sentimenti, l'amicizia, il tempo che passa. Quindi credo che con questi 10 pezzi riusciamo ad abbracciare un po' tutto quello che è la poetica, no, di Gianni in questo senso. Andiamo ad ascoltarci un secondo brano, Sera di luglio, poi ritorniamo qui insieme a te. Thank you. attutisce il rumore. La focaccia nel cielo di un poco si è spostata. Sera di luglio, un brano davvero bellissimo, Holden insieme a Gianni Siviero, la produzione, le musiche sono di Flavio Ferri, ma con te in questo caso Holden c'era anche una voce femminile che è quella di Claudia Crabuzza. Sì, Claudia è una grande amica ormai da anni, tra l'altro ci siamo conosciuti al Tenco moltissimi anni fa e siamo rimasti in contatto e sono contento insomma che sia ci sia anche lei in questo disco con la sua voce particolare, la sua interpretazione, credo che abbia dato un taglio molto particolare al pezzo, che già di suo con Feo dicevamo è un pezzo folle, no? Nel senso che ha un qualcosa di lisergico, una sorta di infatti a Gianni diciamo sei il Syd Barrett italiano, è un pezzo che comunque esce un po', no? Da quelle che sono quello che è il canone della canzone d'autore, no? È una canzone piuttosto strana, con un testo molto, molto particolare, quindi ci piaceva farlo questo pezzo. E Claudia è stata grandissima, come sempre. E oltre a Claudia è nel disco, ed oltre a Gianni Siviero che ti accompagna, come abbiamo ricordato prima, ci sono però anche altri tre cantautori ed interpreti, in questo caso Russo Sala, Siganda e Wayne Scott. Esatto, sì, sono altri colleghi e amici che insomma ho avuto la fortuna di incontrare durante gli anni, quindi è stato anche facile coinvolgerli, hanno risposto subito con molto entusiasmo e credo che anche loro abbiano dato la loro impronta ai pezzi. Ecco, ma tra l'altro al di là di Claudia Crabuzza che abbiamo appena sentito, ma anche di Siganda o di Russo Sala, che pur essendo catalana canta in italiano, c'è invece una partecipazione che è quella di Wayne Scott che canta in inglese. Sì, c'è Wayne che diciamo canta una strofa, un inciso in inglese. E abbiamo fatto questo, ci sono messo anche io un po' a fare da traduttore, perché comunque abbiamo dovuto tradurre il testo dall'italiano all'inglese in modo tale che potesse suonare bene. E poi Wayne è venuto un giorno in studio qui a Barcellona e l'ha registrato quasi alla prima, quindi è stato anche lui bravissimo, è entrato subito nel pezzo e ci piace. Qual è stata la reazione di Siviero, non solo sentendosi cantare da altri, ma anche sentendosi cantare in un'altra lingua, tradotto? Gianni, diciamo come la reazione è stata, inizialmente è stata guardinga, ecco, se possiamo dire così, perché comunque forse non si aspettava un'escursione verso altre lingue, ma poi ha apprezzato molto. Cioè Gianni è una persona che è molto razionale, molto... che ragiona molto su quello che scrive, quello che pensa, quello che dice, e quindi ho imparato a conoscerlo. Lui ha i suoi tempi per elaborare le cose e poi può tirarle fuori, quindi alla fine il giudizio è stato più che positivo, anzi contentissimo di questa cosa, di questo tocco british al pezzo. Visto che ne parlavamo, ce andiamo ad ascoltare questa canzone dove insomma ci siete tu, c'è Gianni Siviero, ma c'è anche Wayne Scott, In cerca di un ragionamento. Eccola qui, dal nuovo disco di Holden, lo ricordo, intitolato Questi anni, 10 brani inediti di Gianni Siviero. Giorno di festa che gocciola via, tempo rilento, privo di allegria, onda saputa di una melodia, ricordo fisso che si fa mania. Is coming back in the middle of the night. Wake up in a sunshine made of broken bones. Surplus on the priest's shoulder. Fleet trip is over and the harbor is closer. Vena sottile di malinconia, sottile filo di un ragionamento che si è spezzato lasciando una scia, pensieri smarriti e schegge di vento. Deep inside you will understand how your pain can be the sweetest thing to live for. It doesn't matter if you lose sometimes, your way of thinking is just coming back. Asking and wondering, but you don't know why. Sottile vena di malinconia solca la mente, con pulsare lento. Come in fondo può essere che sia dolce anche la tristezza del momento in cui si accetta la sconfitta e via, di nuovo in cerca di un ragionamento. Come in fondo può essere che sia dolce anche la tristezza del momento in cui si accetta la sconfitta e via, di nuovo in cerca di un ragionamento. Come in fondo può essere che sia dolce anche la tristezza del momento in cui si accetta la sconfitta e via, cerca di un ragionamento. Holden, Gianni Siviero, accompagnati qui da Wayne Scott, terzo brano che vi proponiamo da questo nuovo disco di Holden, che ci sta accompagnando questo pomeriggio qui a Zibaldone su Radio Contrabanda. Holden, ci accennavi prima riguardo ai testi di Gianni Siviero, dei testi che sono in ogni caso molto profondi, sia che tocchino tematiche più politiche o sociali o altre magari più intime. Beh sì, Gianni è un cantatore di razza, no? La musica d'autore sempre si dice che parte dal testo, senza un testo importante non esiste una canzone d'autore, e Gianni è proprio così, no? E questa sua poetica, questa sua volontà anche di trattare non tanto i temi che sono importanti, ma come trattare ogni tema, quindi con una certa profondità, con una grande attenzione, mi ha fatto un po' specchiare, no? nel suo modo di fare. Mi sono ritrovato molto, quindi è stato anche più facile probabilmente entrare nelle sue canzoni, perché io sempre dico a Gianni che io e lui ci saremmo dovuti incontrare nel 68, no? Mi sarebbe piaciuto essere con lui e occupare la palazzina Liberty insieme a lui e Dario Fo, no? Perché è come se fosse un amico che ho conosciuto troppo tardi, o anzi troppo tardi no, ma diciamo un po' tardi. La stessa cosa dice anche lui, no? Mi è successo appunto anche leggendo i suoi testi di ritrovarmi in alcune frasi, no? In alcune righe che quando ho letto ho detto no, qui c'è qualcosa di, che ci mette, insomma, che ci accomuna, che ci avvicina, no? Cioè Gianni in questo disco abbiamo scelto una canzone tipo Italiani Veri, per esempio, dove Gianni parla di Bologna, parla di Piazza Fontana. Parla di cose delle quali ormai non parla più nessuno, no? E cerca di scardinare un po' quelli che sono i luoghi comuni e le retoriche più becere che spesso nascondono le magagne del nostro paese, no? Infatti già il titolo Italiani Veri fa capire un po' qual è il senso di questa canzone. Anche a me piace, insomma, durante i miei anni della mia carriera, i miei dischi, ho cercato di toccare anche dei temi che non sono esclusivamente sentimentali o personali, ma anche più generali, come nel disco Prima che sia tardi, che come ricorderai è un disco concept con un'idea fortemente politica di base, quindi dove ho cercato di analizzare e di criticare e di raccontare la nuova ascesa delle nuove destre che tu conosci meglio di chiunque altro, e quindi con quel disco ho cercato di dare un messaggio importante, cioè che ancora oggi si può parlare di politica, si può fare politica, no, non fare politica, ma parlare di politica attraverso le canzoni, di affrontare dei temi scomodi anche. Eh sì, e insomma, scegliere Gianni Siviero forse è anche la via più diretta poi per andare in questa direzione, no? Certo, sì, infatti. Gianni Siviero, se non lo conoscete davvero andatevelo a cercare, leggetevi i suoi testi, ascoltatevelo nei suoi dischi degli anni 70, in Io credevo, che abbiamo già ricordato, questa compilation uscita per Squilibri 2 anni fa, e ora appunto anche in queste nuove versioni e con la sua voce da splendido ottantenne insieme ad Holden in questo nuovo disco, Questi anni, 10 brani inediti di Gianni Siviero. Parlavamo prima, Holden, delle collaborazioni, ce n'è anche un'altra che è quella con Siganda, cantautrice italiana, siciliana, però in realtà anche, diciamo, francese, no? A mezzo tra il Belgio e la Francia, l'Italia e la sua Sicilia natia, è stata anche a Barcellona a suonare qualche anno fa. La canzone che avete cantato insieme si intitola Questi anni. Ce la vuoi presentare tu? Sì, beh, con Ziganda è stata un'altra collaborazione molto, della quale sono molto contento, insomma, grande interprete, in questa canzone che racconta un po' il tema della malinconia, del tempo che passa, che è un altro tema a me molto caro, che mi rendo conto che torna molto spesso nei miei testi. Insomma, è stato bello poterla cantare insieme a lei, insieme a Gianni, qui siamo tutti e tre, quindi con tre, ognuno con la sua voce, ognuno con la propria sensibilità, credo che sia venuto un bel puzzle emozionale. Questi anni, Ziganda, Holden, Gianni Sivir. Non ti fidare troppo dei tuoi anni, anni smaniosi, rapaci e già delusi, privi di un orizzonte oltre la sera, gli anni sognanti il nulla ma firmato. Seriale etichettato ma esclusivo, la disperata simbiosi solitaria, con un pezzo di latta colorato, scagliato in una gara senza scopo, nel vuoto scuro e privo di trofei, di una affollata angoscia, senza nome. Gli anni arroganti dei passi sfrontati che fendono la folla indifferenti, che conquistano spazio con violenza, gli anni ignoranti, parole per parlare, che nel rumore non servono parole, servono urli e spinte, birra in pugno, serve ciò che si afferra in quel momento. Gli anni voraci che non sanno sapori, che un corpo prendono e credono di amarlo, chiamando la dolcezza debolezza. Gli anni senza domani perché l'oggi è già l'eternità, è già l'istante in cui tutto accadendo è già accaduto, perché questi anni sono come il lampo che si accende e si spegne tra le nubi, quando ancora di ozono odora l'aria e il tuono sta vagando per il cielo, mentre là dove il fulmine è caduto la scintilla ormai cenere si è spenta. All'orizzonte ti accorgi che è lontano. Questi anni non sono che un istante, dire per sempre è soltanto un'illusione, e nell'ardere intenso del tuo tempo domani ti accadrà di risvegliarti e accorgerti sereno. Rientriamo qui in diretta su Radio Contrabanda insieme ad Holden, ci sta presentando il suo nuovo disco Questi anni. Questo disco, diciamo, chiude un lustro, Holden, di 5 anni, insomma, in cui non ti sei mai fermato, al di là che ci sia stata la pandemia. 2022 appunto esce Questi anni, nel 2021 Cuore Nero, l'anno scorso ne parlammo anche qui a Zibaldone, l'anno precedente il 2020 lo ricordavi tu prima che sia tardi, e prima ancora c'era A 60, un tributo ai cantautori italiani e non solo italiani degli anni 60. Insomma, la tua carriera ormai è più che decennale, ci sono tanti dischi all'attivo, ultimamente sei iperproduttivo, insomma questo disco che cosa segna nella tua carriera? È un piccolo passo in avanti oppure segna un prima e un dopo la collaborazione con Gianni Siviero? Allora, intanto questo disco segnala che appunto, come tu ben dicevi, gli anni sono passati, quindi non sono più quel giovanissimo Holden, un po' meno, però sicuramente con più consapevolezza, e credo che il fatto di aver fatto tante cose è stato un po' dovuto anche al periodo orribile che abbiamo vissuto, insomma, no? Perché prima che sia tardi è uscito poco prima, ma veramente 2 settimane prima dello scoppio della pandemia, dipende dall'accento italiano o spagnolo, io ormai non ricordo più qual è quello italiano. Pandemia, perfetto. E quindi da quel momento in poi, visto che comunque non si poteva suonare dal vivo, non si potevano fare altre cose, l'unico modo per esprimermi è stato quello di scrivere tanto. E, tra l'altro, a 60 che hai citato è stato il primo disco che ho fatto con Flavio. Quindi noi praticamente da quando abbiamo iniziato a lavorare con Flavio abbiamo fatto 5 dischi, se non conto male. Quindi siamo stati anche Flavio, un uomo iperattivo che non si ferma mai, poi non è che lavora solo con me ma con altri 20.000 artisti, non so come fa, forse dorme poco, anzi lo so che dorme poco e si alza molto presto. E quindi questo disco spero che sia ovviamente un passo in avanti, come tutti i dischi credo che lo siano. Soprattutto sono molto orgoglioso davvero di essermi incontrato con un personaggio, una persona come Gianni. Davvero mi riempie d'orgoglio, sono contento di essere stato io proprio a ritirarlo fuori dal suo nascondiglio e avergli dato la possibilità di far ascoltare a tutti le meraviglie che ha scritto e che continua a scrivere. Ieri mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: finito un altro album, perché lui li chiama album anche se non sono usciti. Mi sembra che sia grigio a pua gialli, cioè adesso, perché siccome ha finito i colori sta inventando delle nuove diciture, fantastico, cioè non si ferma mai. Ascolta, a proposito, per chiudere, ma insomma ci sarà la possibilità o avete pensato anche magari a un live insieme o è impossibile? Questo non si sa, diciamo che sarebbe bellissimo, magari dopo l'estate, non lo so, io ancora non gliel'ho mai detto ovviamente a Gianni. Credo che sarà difficile, però non lo escludiamo. Era anche molto difficile pensare che cantasse all'inizio, certo. Nessuno credeva che partecipasse al progetto, invece poi l'ha fatto, quindi non si sa, vediamo. E ultimissima domanda, ora sì, visto che insomma hai avuto una produttività incredibile negli ultimi anni, questo disco so che era già stato terminato mesi fa, stai già lavorando a qualcosa di nuovo magari insieme a Flavio Ferri? Ci siamo detti veramente, perché io Flavio mando ogni tanto qualche pezzo nuovo, lui mi dice bello, brutto, fa schifo, meraviglioso, perché Via di Mezzo non ce l'ha. Però ci siamo detti fermiamoci un attimo con i dischi, perché comunque ne abbiamo fatti abbastanza, adesso è il momento di portarli in giro, perché abbiamo avuto poche possibilità di suonare dal vivo, quindi l'idea è di suonare il più possibile. Io ho un disco pronto, Flavio non lo sa, però è pronto, quindi quando sarà il momento lo faremo. Entrerete in studio di registrazione e lo registrerete. E noi ci salutiamo con un ultimo brano da questi anni, lo ricordo, 10 brani inediti di Gianni Siviero, il nuovo disco di Holden prodotto da Flavio Ferri con la partecipazione di Gianni Siviero, ma anche di altri cantautori come Claudia Crabuzza, Russo Sala, Sigande e Wayne Scott. Ci salutiamo con Che bella luna, presentacelo tu per salutarci, Holden. Questa canzone è una splendida, come abbiamo detto prima, era già nel disco collettivo, io credevo, che vinse la Targa Tenco. Ci siamo molto affezionati, sia io che Flavio, perché è un pezzo potentissimo e ci è piaciuto anche molto l'interpretazione di Gianni e l'arrangiamento, che è anche un po', diciamo, noise rock, se vogliamo. E c'è una frase che sempre uso ormai quotidianamente quando discuto della società di oggi, che quando Gianni scrive questa canzone come un teleromanzo per idioti, no? Racconta di come vengono comunicate le cose oggi. Questa frase penso che sia veramente geniale. Teleromanzo per idioti è una sintesi che è un capolavoro, e tutta la canzone ha un coraggio, una forza che veramente mi ha emozionato e mi ha reso molto facile interpretarla, ecco. Complimenti per questo disco, Holden, grazie di essere stato con noi e a prestissimo. Grazie a te Steven e grazie a tutti gli ascoltatori di Contrabanda. Che bella luna, Holden, Gianni Siviero, Flavio Ferri, godetevela. Lo spettacolo ha fame, ha tanta fame. da divorare tutto e digerire. Il vero, il falso e trasformarlo in lire, in indici d'ascolto ed in liquame. Che bella luna c'è nel cielo questa sera, che bella luna e che magnifica stellata. Che bella luna, sembra proprio disegnata. Che bella luna, c'è nel cielo, sembra vera. Tutto mi sembra vero e finto insieme, e non so più distinguere davvero se è una rapina finta o un furto vero. Non so più se distinguere conviene le guerre vere, quelle per finzione, morti reali e morti recitate, cotte all'istante oppure registrate, sono tutte uguali per televisione. Che lo spettacolo ha fame, ha tanta fame da divorare tutto e digerire. Che bella luna c'è nel cielo questa sera, che bella luna e che magnifica stellata. Che bella luna, sembra proprio disegnata. Che bella luna c'è nel cielo, sembra vera. Trasformato in lire, indici d'ascolto ed in liquame. Amore, morte, odio, terremoti, stupri, linciaggi, scannamenti in massa, tutto filmato, raccontato, passa. Come un teleromanzo per idioti. Che bella luna c'è nel cielo questa sera, che bella luna e che magnifica stellata. Che bella luna, sembra proprio disegnata. Che bella luna c'è nel cielo, sembra vera. Che bella luna e che magnifica stellata. Necessarie politiche di tutela e supporto per giocattoli, toeletta e ovviamente cibo. In caso del grillino Petrocelli, putiniano di ferro, per sedersi a un tavolo di un ristorante. Lo bombarda. La Turchia offre una nave per l'evacuazione di 60 fra chef, camerieri e direttori di sala, che saranno deportati a Mariupol. Pandemia e guerra non fermano le folli attività del pallone. Sorridente, occhiali scuri e soprabito blu, la ministra Carfagna condanna la retrocessione in Bill Venezia per una giustizia giusta, mentre la mamma di Mbappé, per portare il figlio a Madrid, chiede la Juventus di Allegri sugli spalti, adagiata su un cuscino. La Camera dice no alla riforma fortemente voluta da Fratelli d'Italia per trasformare il paese in una mozzarella di bufala nazionale. Meloni, la battaglia continua tra gli ungulati, l'asset più importante su cui investire. Fine settimana di caldo estivo con narcos sudamericani e noti latitanti, chi approfitta per i primi bagni al mare e chi telefona a Salvini per una giustizia giusta. Abbiamo preso il controllo di 2/3 del territorio. 3 parametri, non solo la qualità della droga, ma anche accoglienza e servizi. Medicinali, sanzioni, borotalco, i temi dell'incontro di Putin con uno straordinario Carlo Verdone preparato dalla Commissione europea per liberare l'Europa dalla dipendenza energetica, ma subito aggredito, gettato nell'intercapedine di un vulcano sottomarino. Il leader russo, lavoriamo male, nel caos e subiamo anche aggressioni, intervenire subito. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta, c'è il bando che sta parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda, siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta, c'è il bando che sta parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda, radio contrabbanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. È certo che la domanda non posso che non farla, perché come avete sentito sono tornate le ultimissime, quindi Banzo, chiedo subito a te un commento telegrafico, perché ho sentito tante cose, insomma, che non mi tornavano, insomma, io leggo spesso i giornali, però ecco, non avevo ascoltato per esempio nulla del ruolo di Verdone, ecco, nella... No, neanch'io, in effetti, forse era un incontro segreto della quale, la notizia del quale è stata diramata all'ultimo, e hanno parlato di medicinali, sanzioni e di borotalco, quindi si vede che, penso si riferiscano al famoso film di Verdone, sì, del quale forse Putin è il più insospettabile dei fan, non chi lo sappiamo. Sa? Sicuramente Banzo, il film piacerà a Salvini, visto che fa così il nazional popolare, che anche lui e la Meloni, ecco, erano al centro delle ultimissime di questa settimana. Ecco, la Meloni con una proposta abbastanza problematica dal mio punto di vista, cioè trasformare il paese in una mozzarella di bufala nazionale. Ecco, una riforma proposta, non so esattamente in che modo potesse avvenire la metamorfosi, forse in modo esattamente kafkiano, cioè dalla notte alla mattina, senza preavviso, sarebbe stato effettivamente un incubo notevole. Poi c'è questo riferimento alla battaglia che continua fra gli ungulati, che è alquanto misterioso, però mi affascina. E concluderei ricordando che per una giustizia giusta la ministra Carfagna ha fatto retrocedere il Venezia. Ecco, io pensavo fosse retrocesso sul campo, invece i lagunari sono stati condannati dalla ministra, che tra l'altro non è neanche ministra della giustizia, quindi insomma, vabbè, non so cosa dirà la Cartabia. Detto questo, Banzo, perché i cognomi si assomigliano, forse è quello. Comunque noi siamo arrivati davvero agli sgoccioli di questo Zibaldone del 20 maggio, ci resta però il tempo per ancora un po' di musica, e lo vogliamo fare dando, insomma, sottolineando anche la ripubblicazione di un disco di cui avevamo parlato rapidamente 2 settimane fa, e riguarda i Fluxus, che, insomma, Banzo, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori chi sono i Fluxus, chi sono stati i Fluxus, che ovviamente non facciamo riferimento al collettivo artistico post-dadaista degli anni 60-70, ma invece a una band torinese degli anni 90. Ecco, qui c'è uno dei caratteristici problemi di quando i gruppi sceglievano i nomi prima di internet, c'era la suggestione, ma non si pensava all'omonimia, ecco, perché si cercavano gli album nei negozi di dischi. Adesso penso che uno dei primi criteri sia il posizionamento SEO del nome di un gruppo, quindi ecco, Fluxus, gruppo torinese nato nel 1992, fra l'altro avevo informazione anche l'ex negazione Marco Mathieu, e insomma un gruppo importantissimo della scena di una città fra le più feconde in Italia, ecco, Noi andiamo ad ascoltarci subito una canzone, poi diciamo qualcosa di più. Un loro disco, che è quello che si ripubblica ora, e tra l'altro con un packaging molto bello, in vinile, un doppio vinile, eccetera, insomma, però dopo, ve lo raccontiamo dopo, si apriva proprio con questo brano, Nessuno si accorge di niente. Loro sono i Fluxus, torniamo indietro di una ventina d'anni. Nessuno si accorge di niente, così si apriva il disco del 2001 dei Fluxus, disco omonimo, che era caratterizzato da una copertina rosa banzo e l'immagine di un maiale crociato. I vegani lo amano, dicono i Fluxus, anche se i Fluxus non sono mai stati vegani. Ecco, come vegano, insomma, credo che sei chiamato in causa. No, devo esprimere un'opinione sulla copertina. Beh, la copertina è molto bella a livello iconografico e non so esattamente se, non credo che avesse questa intenzione, ecco, però è un'immagine che nel suo minimalismo ha senz'altro una forza notevole è un peccato, come al solito stiamo parlando di immagini via radio, sempre una cosa sconveniente, andate a cercare l'immagine per farvi un'idea, ecco. Cercatela, ecco, e adesso si è ristampato da un mese circa, appunto in doppio vinile, quindi con la stessa copertina e un sacco di cose molto belle per i tipi della Garrincha Cult. Tra l'altro in questo disco collaborava anche Roy Paci con una visionaria tromba eclettica e Teo Teardo, che ha curato il remix del brano che ci ascoltiamo ora per salutarci, che è Talidomide. Però due cose in più ancora sui Fluxus, per chi non li conoscesse, Banzo, perché ci sono delle cose molto interessanti. Nel 1996 pubblicarono l'album Non Esistere, loro dicono che oggi non esiste più, dicono, perché le copie restanti dalle vendite non pagate dall'allora produttore esecutivo vennero in seguito date al macero dal distributore Self, che le custodiva in magazzino. Ecco, loro dicono, è il disco più raro, ci credo, no? Beh, veramente un nome proprio. Sì. Cioè, assolutamente, credo anche qui si trattasse di qualcosa di involontario, come la copertina di Pocalfi, però ecco, a volte veramente il titolo, il nome contiene un destino, credo in modo assolutamente involontario. Ecco, ecco, poi giusto per qualche altro aneddoto, nel 2005, spiegano gli stessi Fluxus, viene registrato un disco dal titolo Satelliti e Marziani, disco che nessuno ha mai ascoltato e che non è mai stato pubblicato, tuttora inedito, prodotto da Kotami Araichi, famosissimo produttore giapponese inventato e mai esistito. Ecco, insomma... La storia di Fluxus ha anche qualcosa, come vedete, di dadaista in fin dei conti. Ci piacerebbe ritornare su questa band perché, insomma, ha segnato una tappa della storia della musica italiana e anche soprattutto della storia della musica a Torino, che, come tu dicevi, è una realtà interessante da tempo. E noi ci salutiamo con un brano che è Talidomide e con questo vi diamo appuntamento a venerdì prossimo per altre due ore di Zibaldone qui su Radio Contrabbanda. Banzo, grazie come sempre di averci accompagnato. Grazie a te, Steven, e come sempre a venerdì prossimo. Eh sì, e come sempre anche ricordiamo quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 19:54 diceva tutti venerdì pomeriggio: e comunque, se è difficile cercare su Google i Fluxus, pensate a quei gruppi che avevano un nome di luogo, tipo i Kansas, i Boston o i Chicago. Sì, questi tre effettivamente è complicato. Ciao Banzo, grazie mille. Talidomide, brano dei Fluxus con cui ci salutiamo. Bye bye, fate l'amore con il sapore e buon venerdì sera. questa che lasciarvi alle notizie sportive dopo la sigla del telegiornale.